infatti si dicono tante cose, è vero, già, è vero, hai ragione. Vai Franco. Mia nonna diceva, guaia che non inventala. Gianni invece è pizzino pizzone. I vecchi si offendono, si dice vecchio invece che dirgli anziano. Dico, vecchio mi lascia il pizzino di Nandi. E che c'è? L'uomo trighe. Hai visto quello che canta? È l'uomo trighe. E chi è? Uno senza denti, che ridere che fa. È l'uomo trighe, la nina nina la. Avanti quello col versetto. Ma su WhatsApp stai girando qualche video? Eia. No, non ho avuto la possibilità di vederlo. Chi è quello che ha fatto il versetto? Vuoi entrare? No, forse ho capito che sono chiamato il padre, non c'era. C'è la cuna dell'anonima sequestri, visto che è anonimo. Da sotto lì, cosa ci vuoi fare, dai, lasciamo spazio anche a loro, non c'è problema, figurati. Vai Franco. No, ma qua arriva proprio così, c'è Pio Pio, Giulio. Lo so, ma anche a me non è che me la passi, assolutamente non muovo nemmeno una lancetta, te può dire, per cui che problemi ci sono, arriviamo tutti forti e dunque lui è sempre sotto, ma sotto però nei bassi fondi mi è proprio giù, veramente giù. Vai Gianni. Sempre lo stesso, sempre le rompiscatole. Ma poco fa c'era la voce, mi è sembrata la voce di Riccardino quando ha fatto break, mi sembrava lui. Il segnale era basso, no? Rispetto a quello che sta arrivando adesso, un segnale di 3, questo invece era proprio 0. Ma Marco c'è ancora? Quasi drummetto. Quel quasi mi piace. C'è qualcuno che sta innescando, chi è? Marcolino. Oh, il tonnello Kawasaki. Mi faccio squillare un telefono. Mi illumi. Chi sei? Buonasera. Ciao popolo. Sta andando, io l'ascolto. Tu ascolti Giulio? Sì, lo ascolto. Ciao a tu. Tutto bene? E beh, Pierpaolo, invecchiando sta. Sei uscito male o c'era qualche portante insieme? Ripeti a tu per cortesia. Ma sempre c'è il portantista vicino a te, Antonio. Ebbene, non puoi andare a fargli il tondino, no? Ma poi lo senti tu solo, perché qua arriva zero il segnale. Cioè, sento tu che gli rispondi, ma non arriva qua. Vabbè, fate girare, dai. Ciao, Antonio, quello lì è il segnale che dici tu, è una specie di risata. Giulio. A me veniva quasi una voce. Giulio. Sì, qua c'è la modulazione, non ho potuto rispondere subito, dimmi. Il 4, corrispondeva anche a te il 4, il PIN dell'alimentazione, te lo ricordi? Sì, il 4 dove ci sono gli 8 volt, sì. Mi stava sorgendo il dubbio a me, perché a primo impatto mi dava tensione al 5, invece poi ho visto che c'era il puntale del testa che stava toccando male, il numero 4 allora, dai, ok, proseguite, scusate. Ciao Massantù. Perfetto Anto, come sempre, ottima radio, segnale 9 più. Gappa, dai, che sto andando avanti con questo microfono se ci riesco. Ok, avanti Tony. Un attimo con X perché sono con la bassa, dietro subito. Ok, d'accordo. Avanti Gianni, e tu la portante la senti forte? Io sì, la sento, diciamo, sarà zona di Antonio. Ho capito, vabbè, sicuramente è lì. Vabbè, comunque, cosa ci vuoi fare? Quando qualcuno è handicappato, no, non c'è rimedio e basta, no, uno per nulla va, nemmeno se lo curi. Oiaia, la futtimusini, dai, è meglio. Avanti Franco. Ma così a offendere gli handicappati, poveracci, che c'è peggio. Allora, sto dicendo, tu hai fatto l'antenna con Giulio, con tutta con l'H155 l'hai fatta? Sì, con l'H155, sì. È un filo elettrico da 1,5. Ma le misure le hai cambiate o hai tenuto sempre quelle delle RG58 del progetto? Sì, avanti. Sì, cazzo, da 3 sei passato a 9 abbondanti. Non ti disturba, puoi uscire anche liscio tranquillamente, a noi non ci disturba. Magari lo sente perché sei vicino a lui, fra. Sì, ma dico, lui, per noi puoi uscire anche tranquillo, liscio, a lui non lo disturba, e a noi non sente lui. È quello, infatti il problema è quello, quando ci sono questi malati mentali, cosa ci vuoi fare, d'altronde? Poi non si presentano mai, non ci sono sempre nascosti, sempre stato così e sarà sempre così. Pazienza, cosa ci vuoi fare? Vai Gianni! Tanto è così, una bomba iPad, cuditi! Facciamo un altro giorno, ce ne andiamo sull'11 Alfa. Ma te parlate in due? No, ho detto, possiamo andare sull'11 Alfa. Ah, io ci posso andare, io se per quello ci posso andare anche sull'11 Alfa, ma è uguale, è troppo vicino e dunque la portante darebbe sempre fastidio, fra. No, se mi ricordo l'altra sera abbiamo fatto così. Vabbè. Comunque possiamo provare, se gli altri ce l'hanno l'11 Alfa, ma non lo so. Io ce l'ho. Allora andate, io vi seguo, dai, tanto io sono a sintonia continua, io vi seguo. Marco mi sembra che, non so che apparato stia usando, Marco? Posso ascoltare, dai, tanto sto facendo roba in cucina, sto preparando la roba per il pranzo, vado in ascolto. Vai, vai, ti sposti di 5, dai. Sì, più il clarifier sono 6. Ok. Ma Giulio? Giulio, ci sei? Attenzione Giulio, ci sei? Fuori. Giulio, ci sei? C'entra bene? Attenzione Giulio. Giulio, ci sei? È solo Giulio che non sento. Giulio, ci sei? Giulio, 1, 2, 3, prova. Giulio. Riesco a passare con 5 kHz oppure no? Per me passi bene. Anche a me. Giulio, 095. Oh, quante difficoltà per un banale canale alfa, caspita. Giulio, ci sei arrivato? Giulio? Eccomi qua, ci sono? Ecco, adesso sei perfetto. K positivo. Giulio, ci sei? Sì, ci sono. Ok, meno male. E devo dire male. Ok, dai. Ci sono. Io mi stavo cercando, infatti mi stavo cercando. Ma c'ero già vicino, eh. Ma però se la stava chiamando. Sì, perché ancora non l'avevo centrato, dove la fate? Perché io stavo andando per un'ersia alla volta, capito Tony? Capito. Antonio, io come ti arrivo? E adesso invece come ti arrivo? 1, 2, 3, prova di modulazione. Ok, zona San Camillo, dai. Trigger, cammino lì. A fuori l'embriachi! A quindi che cutto? C'è uno che canta, non so se l'avete visto su Facebook, tutto senza denti, e canta e dici, deve essere mezzo scemo, va. C'è tutto senza denti e ci mette a cantare, è l'uomo trighe, e na na ni na na na. Siamo vicini a te, ne ci vedo. Ah, pensavo che non ci fossi lì, invece c'è. Vabbè, no, io invece basta che salga di coso, di kilohertz, 10 kilohertz. Benissimo, non c'è problema. E Marco piuttosto è rimasto sull'altro canale. Marco, non ce l'hai clarifiere? Vediamo un po' se c'è questo cretino, ci sei, portantista. No, non c'è. Ma io non me ne sono manco accorto, ma vi arrivava forte a voi? Oh, guarda, meno 0,05. Allora Anto è sempre solito cicchettaro lì, dai, va bene, ok. Allora tolgo il microfono da quello, metto sul Polmar, vediamo se funziona bene, ok? Vai. Sì, Anto, un Polmar base vintage, sì, un Polmar base vintage a 220, dai. Adesso lo provo lì, vediamo un po' se funziona. Provato col test, le connessioni sono giuste, così lo chiudo, dai. Poi mi mandi la foto, se è possibile, di quell'apparecchio, Claudio. Eh certo, te la mando, non c'è problema. Adesso fammi provare un microfono, fra, così sono sicuro che l'adattatore va bene per tutte le radio. E questo microfono lo posso usare da 8 a 4, dai. Ok, lo stacco da qua e lo metto sul baracchino. Sì, vai tranquillo, no, quando c'è tempo, non c'è fretta, tranquillo. Avanti, Giulio. Sì, riprendo io. Volevo sapere se è rientrato Tonino o se è ancora in apparato. Tonino, sei rientrato? Sì, da poco fa, ma io devo fare anche il corrisce, cavolo. Perché mi aspettano. E qui non posso portare, semmai ci siamo affittati, dai. Ok, buon proseguo. Saluto a Claudio che sta cambiando il microfono. Gianni, Franco, Antonio. Alle prossime, ciao ciao. Ciao Tony, ben ascoltato, alle prossime, grazie per la chiacchierata. Ti mando avanti gli amici per salutarti, dai, vai Gianni. Ciao Tony, ci sentiamo, dai, buona continuazione in serata. Ciao Tonino, alla prossima, ben sentito, come sempre. Vediamo un po' se Marco ci ha seguito, Marco? C'è Marco lì da pure. Marco? Marco? Vai! Allora, questo è il Polmar 7000 con lo stesso microfono, Giulio, com'è? Prova a abbassare la pera e a parlarci sopra, magari lentamente. Così l'ho abbassato, e così è, allora di là lo stavamo tenendo, vabbè quello è un'altra cosa, così è perché l'avevo messo a 4, così l'ho messo a 2. Ottimo, ottimo qua, potete anche a 3 volendo. Ottimo Antonio, da parte mia ottimo, va benissimo. Vabbè, il segnale 7, ma io ho l'antenna bassa, perciò diciamo che un pochino di segnale te lo rubo io, perché ho l'antenna bassa. Ma qui ha aumentato parecchio, da 3-4 è passa 9-9-5. Sì, beh certo, lì è diverso, lui si trova in zona di Madelta, per cui verso te è più favorevole, ma dove sono io no, anche perché lui ha l'antenna messa in una posizione assolutamente nascosta nei miei confronti, è così fra. Capo, vediamo Claudio se sta sistemando, Claudio. No, io ho già sistemato, lo solo chiudere, mi dovete dare conferma se va bene così. Adesso l'ho messo a 3, Giulio. Mi dovete dare conferma se va bene, se la modulazione è piacevole e se posso chiudere tutto. Sì, sì, da parte mia sì, da parte mia va benissimo. Mettimi per un attimo la portante muta. C'è un po' di radio accese. E infatti per quello che te l'avevo chiesto, perché per un attimo avevo sentito il grillo, l'avevo sentito e si vedrebbe quello. Però diciamo che va bene e poi per un attimo ha fatto di nuovo il grillo, ha fatto, ma tu mi stai già spiegando che hai delle radio accese e sicuramente il motivo è quello. Riprova ancora, vai Claudio. Allora adesso ho spento tutto, ok? C'è solo l'alimentatore di base acceso. Vedi un po'? Perfetto qua, perfetto. Puoi anche aumentare il microfono, volendo puoi anche aumentare il volume del microfono. Quindi lo rimetto così a 4, va bene a 4 allora? Va benissimo, anche a 4 va bene, dai. puntella, io. Cioè, vabbè, troppo ne sappiamo. Hai visto giù, anche quella resistenza, quella modifica lì, in pratica non ha danneggiato niente, nel senso che va bene anche con i baracchini, quindi voleva proprio modificata l'impedenza della capsula. Qua c'hai più alti però, come frequenze, Claudio? Un pochino magari più alti ci sono, sì, sicuramente, perché sai, questo baracchino, tra l'altro non c'è manco, Mickey Gain è a metà, e quindi è regolato solo così, però di là c'è il processore inserito e tutte cose, capito? Quindi un po' magari perfezione anche la modulazione, però mi sto ascoltando, è piacevole questo, Sì, sempre, amplifica, è logico, quella là è un altro modo, perché ripeto, dietro c'è una cosa diversa dietro, dai. KK, mentre così Giulio, a 5 è troppo alta, a 5, vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5? No, va bene, non distorce niente, va bene, ha aumentato solamente il volume e va bene ugualmente a 5. Che diversa che è, Claudio, rispetto alla tua apparato? Diversa no, non è vero, i baracchini sono baracchini e gli HF sono HF. Non c'è niente da fare, di là c'è il processore inserito, c'è un altro sistema di lavorazione, di lavoro sul microprocessore, insomma un'altra guba, non c'è niente da fare. Le radio professionali sono professionali, non c'è niente da fare. Comunque questo è abbastanza piacevole. Greco. Guarda, te l'ho mandato. Tu ascolta il primo file, ascolta il secondo e senti che differenza. Sì, avanti Fabri. Siccome lo devo staccare, che l'ho appena chiuso, era per verificare se tutto andava bene, che ho appena chiuso questo apparecchio. Incontro anche chi l'ha ascoltato poco fa, con quella modifica della radio, dovrebbe essere un po' più forte. Sì, va bene Fabri, questa va bene, questa la potevi già chiudere. No, questa l'ho chiusa, è giusto una prova che la metto in busta così gliela restituisco. Va benissimo, questa è a posto, adesso speriamo bene per l'altra Fabri. Non lo so, giusto posso allineare la parte in trasmissione, perché se no non riesco a capire che cavolo può essere che va in distorsione, potrebbe essere anche qualche problema sui finali, non lo so, su qualche corrente che sta circolando lì, non lo so, adesso do un'occhiata veloce, però non ho nemmeno molto tempo da perderci perché c'è un po' di roba da fare, devo preparare anche una radio che ho promesso e devo fare un po' di connessioni. Là. Questa va bene, poi adesso lavoraci sull'altra, vedi un po' se riesci a capire, sicuramente sì, ma ci vorrà magari un po' più di tempo, ma già la metti a posto, beh. Ok, questa va bene. Va bene, chi eri in ascolto poco fa che ha sentito questa radio? Sì, ce l'ho anch'io. Come ti sembra che abbia aumentato? Io la sento leggermente, un po'... leggermente è stato, ma un filino, considera che è un microfono originale tutto quanto. Sembra che sia leggermente strappato, ma un filino. Non lo so, cos'hai toccato? Ha aumentato qualcosa? Adesso ho aumentato, diminuito un po' anche la potenza. Sì, a voi che ne dà questa radio. No, ma non credo che stia strappando. No, un filino, proprio... No, fra, è come magari senti tu dal baracchino, io qua lo ascolto magnificamente bene. Non lo so, gli altri, non lo so, Marco, come lo senti tu? Marco? Magari fra, perché c'è il segnale un pochino più basso. Giulio, come lo senti a Fabrizio? Una normale modulazione di microfono normale. E va bene, Fabri, va bene. Ci sta, un buon microfono normale rimane un po' più nasino, no? È ovvio. Però va bene. No, allora va bene così. No, perché l'ho chiuso, ho fatto una modifica, come diceva Claudio, sulla parte di regolazione dell'LC, praticamente ho fatto una modifica per far spingere di più il modulatore. E quindi volevo vedere se non stava strappando, se era tutto a posto, perché l'abbiamo chiusa, così adesso la do via, poi la restituisco, perché questa aveva un problemino sul display, praticamente non sul display, praticamente per la fine si spegneva completamente ogni tanto, quindi l'ho messa a posto, però visto che ce l'avevo in mano, ho tanto 10 minuti, ho provato a fare questa modifica sul, per far spingere di più il modulatore, che si poteva fare, quindi la stavo solamente provando prima di metterla in busta e restituirla, che ho fatto veloce, siccome non ho spazio qua e devo fare delle cose che sono un po' incasinato, e ho fatto una promessa a una persona e se ce la faccio domani ci voglio andare. Sì, va bene così, proprio, dai, lascia stare, chiudilo e mettilo in busta, che va bene così, non c'è problema. Va bene, adesso lo spengo, lo stacco e provo a fare altre due cose. Dai, a dopo, ciao, grazie. Ciao Fabri, siamo qua. Ciao Fabri, avanti Fra. No, Fra, qua arriva forte, il segnale arriva forte, cioè, è quasi sul più del 30. E allora, pensavo fosse un problema di segnale, visto la tua antenna, però io qua non noto niente, ho commutato anche, adesso vabbè, sto usando il baracchino col Turner, però anche prima abbiamo fatto le prove sul 20 e va molto bene con la radio, adesso è ottima per la truppa, va bene. Eccomi, sono rientrato. Claudio, hai notato la differenza abissale tra l'una e l'altra registrazione? Stessa posizione del registratore. Questa, come dire, i toni più acuti leggermente barattolati. L'altra era favolosa. Dimmi Fabi. Aspetta che poi spengo. Scusami Marco lì che stavo finendo. Siccome io qua c'ho il microfono dell'altro Lincoln, no, che non è l'originale, adesso senti questo, adesso qui in questa radio che funziona, lo metto qua, dimmi come ti sembra, se migliora la radio o peggiora, voglio dire migliora questo, sono sempre due palmari, eh? Sì, prova. Questo praticamente è uno standard. Questo è della radio che non funziona il microfono? Sì, questo è della radio che ha problemi, aveva questo microfono e volevo vedere se era... non è l'originale, però è molto pesante, è uno standard, non l'avevo mai visto. Per vedere se come cambiava la modulazione. Meglio. Per me è meglio questa. Il microfono gliel'ho dato io a Tino, ok? Gliel'ho regalato io ed è dello standard 7000 che ho io, che però non è funzionante, io ne ho un altro standard, gliel'ho dato io, è un microfono ceramico e spinge molto, il doppio di quello originale. Confermo anch'io, Fabri. Vabbè, perfetto, no, era per sapere come andava, la curiosità di prova. Quello è il microfono suo originale, e siccome mi serviva un microfono originale per fare le prove per curiosità, per capire se potessi il microfono, e siccome sono passato e metto, sì, ma allora, dammela che ti controllo, visto che me l'ha detta, la controllo, che va dei problemi questa radio, ma roba di alimentazione, quindi velocemente l'ho messa a posto, e adesso che ho fatto quella modifica, volevo provare il microfono, anche per voi, no, capire, quello era quello del presidente suo originale, mentre questo è quello che gli ha dato Claudio Attino. Sì, ma c'è un abisso, gliel'avevo già detto a Tino, quello è un microfono eccezionale, spinge, guarda, per dirti la sincera verità, spinge quanto è un microfono preamplificato da palmo, va veramente molto bene, su quella radio lì, su quella di Tino invece va, c'ha quel problema. Vabbè, ma quello è un altro problema, non so se si risolve anche per eccesso, però l'importante era giusto per curiosità, dai, adesso spengo tutto e vado a lavorare su quella, però l'importante era capire questo micro, questo va bene ed esce molto meglio, quindi accoppia molto meglio con l'altra, anche per saperla. Al 100% Fabri, al 100%, se là ti do 5, con questo microfono ti do 20. Ho capito, dai, buono a sapersi. KK, è un microfono di quelli vecchi, tipo Tokai, tipo Pace, capito? Sono microfoni ceramica con il sensore se lo apri, sono quei microfoni che vanno molto molto bene. Gli ho dato appunto perché lui aveva problemi che non capiva se era il microfono o meno, e quindi gli ho dato quello lì. Va bene, siamo qua se ti serve qualcosa, vai. Eia dai, proseguite, ciao. Ciao. Allora, Giulio, posso puntellare con questo microfono? Lascia stare così? Sì, Marco, c'è un abisso. Perché te l'ho spiegato, però? Perché sta lavorando con un HF, il microfono ha altre prestazioni di modulazione. Questo è un baracchino anni 60 con un semplice Mickey Gain, non ha niente, quindi... Però sono contentissimo che va molto bene. C'è Eugenio, adesso lo mando avanti. Sì, conta che questo baracchino riceve già di suo, ha una ricezione un po' con toni alti, quindi sicuramente se metto gli altri apparati si riceve un po' più bilanciato. Vai Eugenio. Buonasera a tutti, cambio. Ciao, oggi mi ti mando una canzone da Savietta, mio oggi, fai da bravo. Sì, Claudio, chiudi che va bene, no, non c'è problema, va benissimo, non bene, benissimo va. Io sono dietro il parere che va benissimo. Avanti Gianni. Sì, avanti non solo che sono al telefono, scusa. Non fare il mandrillo tu al telefono. Vai Franco. Saluto Eugenio se mi ascolta. Ciao Eugenio. Sì. Aspetta che abbasso qua. Oh, Fra, con quasi 10 watt. Quanto è il segnale? Per rimoglio, ma rimoglio. Per rimoto dal capo, prova. Guarda a vedere. Quanto è il segnale? Sei sceso a 6, con picchi è a 8. Sì, con picchi a 8. Adesso ho tirato sulla potenza del baracchino. Com'è invece adesso? 9 più 20. Va bene. La radio è invariata? Ottima. Troppo risale Mastro Giulio, che... Troppo risale Mastro Giulio! Vabbè, dai. Non è un problema, quando si può, quando non si può pazienza, o meglio, quando ci arriviamo con piacere, quando non ci arriviamo pazienza, non abbiamo tutte queste pretese da super esperto o da super uomo, assolutamente no, ci mancherebbe, anche perché ti criticano solo per questo, mi abbai da Baglieri, per Maroso gli somiglia, lo so che è successo altre volte, non per me, ma per un'altra persona che stava parlando stamattina con noi. Va bene, dai, facciamo girare. Avanti Marco. KK, dai, io vi devo lasciare che devo cambiare l'olio della friggitrice da 2 ore che l'ho detto, e così mi preparo per dopo, ok? Quindi rimango all'ascolto, saluto Eugenio di nuovo, prima parata assieme a Bombolo e dai, quindi Querix per me, chi altri c'è? Gianni al telefono, vai Franco. E anch'io stavo salutando Eugenio, non so se mi ascolta, Eugenio. Non mi ascolta. Riprendi Bombolo. Oggi gli ho detto che stava arrivando a casa, boh, non lo so. Vabbè, ho ristaccato comunque, adesso sto andando con 5 watt modulati 8, 9, 10, non so. Vabbè, comunque vedo i picchi di modulazione. Non ne aveva mai questo baracchino, adesso c'è anche il picchio di modulazione giù. Sì, a voglia, ce l'ha abbastanza. Da 9 appena passato arrivi a 9,10 con i picchi di modulazione, per cui c'è un bel incremento, dai, c'è un bel incremento di potenza a radio qua. Vediamo se riprende Eugenio. Eugenio, ma non ti sarei offeso che ti ha giudito che ti mandavo la canzone da Salisa, no? Mamma mia, attento Eugenio. No, siccome so che le piacciono le canzoni sassarese, no, qua, allora gli ho mandato una cantata da un gruppo di Sorso, ma già l'ha ascoltata perché ho visto che l'ha aperto il messaggio, dunque te l'ha ascoltata. Andare, dai. Gianni, sei rientrato o stai ancora facendo un mandrillo al telefono? No, sono al telefono ancora. Stai dicendo bene, però c'è stato un fischio, non so cosa è successo, se era un fischio o un innesco forse. Riprova tu, dai, Santiago è 7, però la radio è forte. Avanti, riprova. Sta innescando, avevo sentito bene a tu. Comunque il segnale è 7,5, dai, per esattezza. Segnale 7,5, ma c'era un innesco, dunque l'avranno sentito anche gli amici. Vai Franco. Capo, è liscio come ti arriva invece, Giulio? E tu? No, lui. Ma chi vi? Antonio? Antonio lo dice, Santiago 7,5 e la radio 5, però c'è quell'innesco. No, quando sgancia, come ti arriva? Ah, quando sgancia, boh, non ci ho fatto caso. No, sgancia normale, mi sembra che sgancia normale, però c'è l'innesco, anche adesso ha mandato un attimo la portante e c'era l'innesco. Sì, confermo anch'io. E vabbè, ma già lo risolve Tonio, dai, già lo risolve, non è un problema. Marco, aiuto, riprendi. No, qualcosa comunque nel finale si è sentito, qualcosa si è sentito, però è abbassato anche la modulazione, come radio, come potenza di radio è abbassata. È diventata più nasina la modulazione, è un pochino più bassa, però già ti sento molto bene lo stesso, non è più problema o altro. Va bene, facciamo girare, vai, Claudio. Ma ci vuole qualche regolazione, perché la radio è nasina, il segnale è sempre quello, 7,5, però la radio è nasina, dunque qualche regolazione la devi fare di sicuro. Vediamo un po' come si sente Claudio, si è chiuso il microfono, avanti qua. Sì, ho chiuso il connettore. Avanti, chi chiama Giulio? Non sono Massimiliano, sono Claudio Sparviero, ti copio benissimo. Sì, Santiago 7 e Radio 5 qua, non lo so come ti ascolta Giulio, forse meglio perché è più aperto lì per te. Vai Giulio. Chi è? Non lo sento qua, è troppo basso e non lo sento. Arriva Santiago 5, ma è basso del radio. Chi sei? Avanti, riprova. Ma non arriva qua, no? Il radio non arriva. Ma chi sei? K2 sei? Ehi, a K2, Christian K2. Santiago 7, Christian, arrivi qua. La radio è un po' bassina, comunque riesco a capire ciò che dici. Aspetta, tu che stava parlando K2, cosa hai detto, Chris? Vabbè, io ti sento, sei comprensibilissimo, però se riesci ad aumentare la modulazione è meglio, perché Giulio di radio non ti sente, capito? Bel casino, oi oi oi. Avanti Gianni al telefono, riprendi Franco, comunque va bene così, dai. Grande lavoro oggi, grande lavoro di microfono, dai, avanti Fra. Sì, K2 dove vai a trasmettere? Dalla fattoria. Qua non arriva neanche qua, è zero proprio. Certo, questo te l'ho dato io. Funzionano bene quei legnalettini. Vanno bene, è un 747, me lo fa la ZG, ma è un 747, capito tu? Cioè, sono uguali. Migliore perché c'ha lo stadio finale a mosso e ti è fatto un po' meglio, però quelli piccolini così, B150 la ZG va molto bene. Non è ingombrante, già va bene, dai, tutto così. Ok, tieni di quanto già serve sempre. Avanti Marco. Marco non riprende. Giulio, riprendi tu allora, dai. Già va bene. Vai giù. Ok. Sì, sì, sì. sì, no, infatti poc'anzi ho intuito che era K2, però mi arriva bisbigliando, dunque non riuscivo a capire quello che diceva qua, ma l'ho intuito dal segnale, capito? Dal segnale, perché bene o male i segnali li conosco tutti. Sì, potrei anche sbagliarmi, per carità, perché alle volte ci sono anche segnali uguali, però diciamo che il segnale è quello e basta, è per quello che ho fatto il nome di K2 poc'anzi. K2, mi dispiace Cristian, non ti ascolto di radio, mettiti l'antenna, così almeno la sera quando ci siamo possiamo chiacchierare tutti insieme, così ti fai sentire anche da me e da altri che non ti ascoltano. Va bene, avanti Franco. Capo, mi dispiace, non riesco proprio a tirarlo fuori. Penso che neanche lui mi ascolti. Comunque lo saluto, se no qualcuno lo saluterà per me. Gianni, ci sei? Gianni, ancora al telefono. Stavi dicendo poco fa di quell'antenna, Giulio. Ti ricordi le misure dello sub? A che altezza l'hai messo? 185 e poi 149,5. 60 centimetri di impedenza, 9 centimetri di condensatore, 340, 41 di filo di elettrico. Perché 341 con la taratura, quello l'hai ottenuto? Sei partito da 345 anche tu? Sì, sono partito da 3,45, dunque, però poi ho visto che non riuscivo a sistemarlo per bene, allora, perché era leggermente corta la canna da pesca, e allora l'ho piegato praticamente, e quando lo pieghi la misura risulta quello, è sempre 3,45, però una volta che lo smorzi, ecco, la misura diventa quella che è smorzata. Ascolta, la prima, allora, 180,5 cos'è? Dalla bobina allo stub? Sì, dalla bobina allo stub, 180 e poi 180 e 5 mm, spazio di 2 cm massimo tra un collegamento e l'altro, 149,5, 62 di impedenza, 60 di impedenza, cortocircuitata, 9 cm, leggermente scarso, ma scarso di 1-2 mm, niente di più, di condensatore. 200, io avevo usato un pezzo di RG8, che poi è la stessa velocità di trasmissione del 213, per cui va bene così. Sì, comunque in regione, la velocità di trasmissione del Belden 155 e 81. Infatti molti fanno più giri di bobina invece che di farne 16, ne ho visto tipo 20 o 21 addirittura, tu invece ne hai fatto solo 16. Sì, 16, perché io dal tubo 63 mm di diametro l'ho ingrossato con della carta adesiva, con la carta adesiva che si usa anche per i pacchi eccetera, no? L'ho ingrossato con quello, misurato col calibro a 66 mm, per cui va bene così, però suppongo che anche da 63 mm di diametro basterebbe probabilmente fare una sfida in più, e penso che si trova lo stesso l'accordo e l'adattamento di impedenza eccetera. Capa, chiedo scusa agli amici, sì, anch'io qua ho usato questa che sto dando adesso, ho fatto un giro in più perché era da 63, come dici tu, e va bene lo stesso, dai. Ok, avanti Claudio. Capa, ok, aspetta, mi siedo, ho rimesso il turn sul capo, dai. Lo voglio fare andare con questo, ok, che c'è una tipica diversa, guarda che ti ho mandato le foto. Quelle vintage sono i miei tre pupilli, poi ti ho mandato il tano più due anche fra. Capra, sto guardando adesso le scarico, dai, riprendi chi c'è? Marco, doppio rum, V? Marco, doppio rutto? E allora, bombolo. Antonio? Gianni sta ancora... facendo il mandrillo, eh? Oh, yeah. Vabbè, dai, comunque. A proposito, fra, adesso se ricordo bene, io avevo misurato anche la lunghezza della bobina, e se ricordo bene era 3,45 m, a volta sul diametro di 66 mm, se ricordo bene, però è così, mi ricordo che è così, fra. Io avevo misurato, mi sa che non coincidevano invece, però più o meno, siamo lì, giro più, giro meno, siamo lì. Comunque è bella Claudio, Bello il Polman, no? E quella di sopra non ti piace, lo standard non ti piace. Che quella è una bella radio, vabbè, te l'ho mandato la foto spenta, ma è tutta verde, illuminata tutta di verde. E l'altro è l'Elbex, sono quelli che uso a destra. A sinistra invece c'ho il DAC. Capito? Perché ho tolto una base e quindi non ci avevo molto spazio, dai. Però quelli sono i tre baracchini che uso. No, sono dei pezzi, davvero, complimenti. Roba vecchia, dice quello, gallina vecchia fa buon brodo, già funzionano, poi sono nuovi, non agio mondezza io, a me la mondezza al mondezzaio, la radio che ho io, anche se sono vecchie, devono essere funzionanti e soprattutto in ottima presenza, ok, quindi Anto riprendi tu e fai girare per Giulio, vai. Riprende, allora riprendo io. Sì, siamo rimasti noi tre praticamente, perché Gianni è in quel regno, Marco sicuramente sta pranzando e poi Antonio si è andato a prendersi un caffè e dunque noi siamo qua. E va bene, qua, e cosa vuoi fare? Quando decidi di buttare via qualcosa, chiamami, che già vengo io con qualcosa, un camion e porto via tutto, non ti preoccupare. Avevano attaccato lo vo, adesso mi tocca chiudere la porta, va bene, ce l'ha fatto Giulio, ce l'ha fatto, non c'è problema, dai. Lo tengo qua momentaneamente questo microfono, lo voglio far andare col capo, dai. Poi quando necessita lo passo all'altra parte, ma comunque adesso l'avete ascoltato, quindi non c'è problema, adesso lo faccio andare un po', poi lo metto là e qua rimetto il suo microfono della K, ok, avanti fra. Bella, simpatica la regolazione dell'amplificazione, con la freccetta che si vede. Sì, sì, quella è originale. Attento che va da 0 a 20, perché ogni freccetta, praticamente io adesso ce l'ho a 3, come me l'ha fatto mettere Giulio. La freccetta praticamente punta fa 1, cioè 3 lineette, 0, 1, 2, 3 lineette, poi 4 come numero, poi 5, 6, 7, adesso sono senza occhiali, vabbè, comunque capito, ogni 3 freccette c'è il numero, la levetta è curiosa, hai visto? SSB più 2 transceiver, cioè c'ha tutte le scritte, guarda, è veramente bello perché è originale, non le manca niente, nessuna scritta, nessuno cavetto, tutto su originale. No, vedo, adesso ce l'hai posizionato sulla terza attacca, poi c'è il 4, poi c'è 8, 12, 16 e 20, il guadagno del microfono. Invece con quella levetta cosa fai? Quella levetta è il lock, tiro la leva e abbasso il PTT. Ah, ho capito, immaginavo, però non ero sicuro. No, eccezionale, io l'ho avuto negli anni 77-78, dai, lo comprai da Pintus e Scarpa in via Cavour con la KB23, se metti questo microfono la KB23, Giulio mio, altro che K, Beh certo, certo, visto, te l'ho fatto sentire anche con le MB più 4 alcuni giorni fa, e mi hai detto che è una bomba, dunque va bene. Perché quella KB23, Franco, qua da cronaca ce l'ho io adesso, che me l'ha regalato Claudio tempo fa, più di un anno, due anni fa, se preciso non lo so perché sto invecchiando, per cui va benissimo, con l'MB più 4 è una bomba, va fortissimo, veramente. Avanti fra. E dopo me lo guardo, HB23 chi lo fa? Lafayette. Un attimo che la controllo, me lo guardo, riprendi Giulio. Ok, è un baracchino del 1970 più o meno, dai, perlomeno così, anni 70, ma più del 70 che degli anni 70, per cui va benissimo. Spettacolare, con l'MB più 5, cioè con l'MB più 4 è una bomba, veramente. Non ha molti watt, perché chiaro è sempre un baracchino, però la radio è straordinaria. Avanti qua. Sì, sì, è straordinaria, è vero. Io ce l'avevo col Turner più 2 da tavolo. Col Turner più 2 da tavolo, che poi ho venduto, dato alla buon'anima Giampaolo Silvestro, Giampaolo Silvestro l'ha dato a Giampaolo RC2. Capito? Adesso rivedermi davanti un microfono del genere proprio mi porta indietro di anni. Allora, quella radio io l'ho comprata da Pintus e Scarpa ed è datata 1968, perché assieme a quella c'era già questo Polmar, cioè non questo, il Polmar è uscito dopo, questo del 72, era già uscito con lo stesso colore, così, del Turner, c'era, che però costava un patrimonio, quindi non avevo la possibilità di comprarmelo, era già uscito il base dell'Inuit, il C-294. Sì, sì, sì, sì. Beh, certo, no, ma si sente poi che come componentistica è sicuramente di vecchio stampo, perché anche come apparecchiatura, nonostante le dimensioni non sono grandissime, è abbastanza veicolare, ma è pesantissimo, è molto ma molto pesante. Si vede che all'interno, io non l'ho mai aperto, però si sente che c'è il materiale, di quello sostanzioso qua, c'è, altro che. Avanti fra. C'era uno in vendita anche, una cinquantina di euro. Si assomiglia anche a quello che ho avuto io, uno dei primi apparati. Io ho avuto il Pace 80-30. L'avevo abbinato con un Turner più 3 da Palmo, usciva che era una bomba. Tutti mi facevano molti complimenti per quella radio. Sì, ma anche il Pace è una radio degli anni 70 che era spettacolare anche quello come modulazione. Abbinato con un buon microfono era straordinario, o con un Turner o con uno Shure o quel che so io, anche un microfono da palmo, quello azzurrino e grigio, sempre del Turner più 2, era straordinario, era una bomba anche quello, il Patch è lo stesso, era veramente un'ottima radio, trasmetteva una modulazione proprio bella, potente. Vai qua. Sì, me lo ricordo, il Pace 123 l'ho avuto io, ne ho avuto parecchi di quelli, però l'HB23, come ha detto Giulio, piccolo ma sincero, no, io non l'ho mai aperto, l'ho visto aperto, quando hanno cambiato mi sono fatto fare il connettore a 4, capito, l'ho visto aperto, ed è molto pieno, ce n'è componenti lì dentro, non ve ne è spazio, è molto bella come radio. E funziona magnificamente bene. E 4 watt dammi Giulio, non è che un baracchino normale, è un baracchino normale, però c'ha un'ottima ricezione nonostante sia piccolino, è un'ottima trasmissione. Caspita, usciva poco forte col Turner più 2, era veramente una radio eccezionale. Poi a quei tempi 23 canali erano sufficienti. Quando abbiamo iniziato eravamo tutti con 6 canali, io c'avevo il Pony 6 canali, poi ne avevo preso un altro 6 canali, il Tokai anche 6 canali c'era, e poi ero passato a quello lì, perché appunto mia madre me lo comprò da Pintus e Scarpa, capito? Da Pintus e Scarpa, perché io stavo già, lavoravo e studiavo, capito? Quindi mia madre me l'ha fatto comprare lì a Sassari. E ho comprato anche il Turner più 2 da tavolo. E adesso vederlo davanti, ti ripeto, caspita, mi porta indietro negli anni, dai. Vai fra. È emozionante sempre. Come l'hai scoperta, Claudio, la frequenza? Così. Io con dei portatili, ho iniziato con dei portatili che avevano della Inuit un canale, e poi ho preso i quarti per gli altri due canali che erano vuoti, quindi erano 3 canali. Poi ho fatto la modifica per l'antenna esterna, poi lo usavo anche con l'antenna esterna, tutto qui. E tu invece come ti è nata la passione? Guarda, a me la passione mi è nata ragazzino, avevo 14 anni. 14 anni, ed ero la mascotte del Radio Club Onda del Golfo a Porto Torres, dove oggi in via Petrarca c'è Radio del Golfo. Lì, prima di Radio del Golfo, c'era la sezione CB di Porto Torres, la vera sezione CB, non quella che è nata al porto, la vera sezione CB, dove c'erano persone grandi. Il presidente era Francesco Brancaleone, il vicepresidente era Corsaro Nero, il nonno di Gavino, Joker, e il segretario era Ernesto Toccai. Siccome Ernesto è mio cugino in primo grado, un po' mi ha portato su quella strada, ma la cosa che mi ha fatto appunto entrare nel pianeta delle telecomunicazioni è che proprio vicino a casa di mia madre, a Porto Torres in via Cavour, c'aveva il negozio Torre Burroni, ed era CB prima, si chiamava GT2 lui e Manola la moglie. Poi è diventato radioamatore e quindi io mi sono appassionato, lui aveva una grandissima direttiva lì in via Torre Sacchi, tra l'angolo tra via Cavour e via Torre Sacchi, quindi ogni tanto ci andavo, sempre lì, e alla fine mi ha detto, aveva parlato con mia madre, proprio, è stato proprio lui l'input, ha detto, sono prima perché voglio comprare Baracchino o Pasqualino, e sempre no, chi è che può vedere in radio, può farmi da, può fare, capito, ero bisino bisone, ero sempre lì, andando e tornando alla via, giocavamo a pallone, a sfasciare vetri e macchine, e quindi mamma ha detto, vabbè, lo vuoi questo baracchino? Io andiamo a Sassari e te lo compro. E siamo andati da Pinto Scarpa e mi sono comprato il primo, la Fayette HB23, poi ho convinto mia madre a spendere qualche soldo in più e mi comprò il Tranne più due da tavolo. Da lì è nata, ma perché io già frequentavo tutta la greffa di Porto Torres, che erano tanti, non come adesso, come dopo, ma erano tanti. Ti posso elencare da Corsaro Nero, Francesco Brancaleone, Ernesto Toccai, Primo La Rossa, Delfino Bianco, Alfetta, c'era TM2, c'era quello che abitava la stazione, che è morto poverino, Bartolomeo XL, c'era Gavina, Domenico, non mi ricordo i nomi nativi, era tutto pieno, c'erano un sacco di CB, Gavino Carciofo che abitava vicino a casa mia, Tonino Bichecco che era il tassista, c'era un mare di gente, ma tutta gente che oggi non esiste più perché sono morti, capito? Non perché sono ragazzi, no, perché non esistono più, c'è solo Ernesto mi sembra a Porto Torres dei vecchi CB, gli altri sono tutti morti, non so se Francesco Brancaleone esiste ancora, ma era già grande quando io ero ragazzino, mi portavano, mamma si fidava di mio cugino praticamente, di Ernesto, quindi dice, Pinù è conmigo, non ti preoccupare, e andavamo da tutte le parti, io ho fatto di tutto, ho fatto caccia al tesoro, facevamo la tombola a Porto Torres, facevamo un sacco di cose, capito Fra? Sì, sì, no, mi ricordo che prima c'era molta gente un po' dappertutto, però Porto Torres era abbastanza affollata di CB, mi ricordo. Io non so se ti ricordi dove abitavo io prima, in campagna lì, quella zona era un po' bassa. Per parlare con Sassari mi facevo roba di 2 chilometri a piedi per andare da Turra, che era una campagna un po' in alto, lungo la strada diciamo che va verso San Giorgio, e da lì riuscivano a sentirmi, perché avevo l'antenna telescopica e sentivano a malapena da lì, figurati quanto eravamo messi male. Erano bei tempi, davvero, guardando sto microfono mi ricordo bei tempi. Poi c'era, vabbè, l'uscita di Porto Torres, c'era Lino che oggi è radioamatore, sono diventati tanti, siamo passati radioamatori, io forse sono uno di quei pochi che ha continuato nella 27 e ci continuerò per sempre, però ce n'erano anche verso la cantonia dei Pidriazzi, all'interno della campagna, se non mi nativi non me ne ricordo, ma era tutto pieno, al Villaggio Satellite, poi non parliamo di cosa c'era al Villaggio Satellite, perché c'era zio Paolino Nardò, c'era zio Paolino Culto, c'era Costantino Carioca, c'era un mare di gente, e noi eravamo sempre di rabotto, ma rabotto nel senso buono, perché si facevano un sacco di manifestazioni, un sacco di cose, capito? Vai giù. Sì, mi ero allontanato per chiudere la porta. Sì, beh certo, ma io invece ho avuto modo di entrare in frequenza quasi per caso, fra. Io lavorando, un giorno mi viene da me mio cognato, un ragazzo che era abbastanza giovane allora, cosa avrà avuto? Avrà avuto 15 anni, una cosa del genere, con un amico, e mi dice, Giulio, questo amico vorrebbe due casse per mettere gli altoparlanti in modo che noi poi andiamo nelle cantine per ballare. Ma se allora? Però dice, non assurdi se gli fai queste due casse. Allora cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare allora? Dice che ha un baracchino e se vuoi ti dà il baracchino e tu gli fai le due casse per mettere gli altoparlanti. Naturalmente senza altoparlanti ci pensava lui, no? E così è stato. Portamelo a vedere questo baracchino. E cosa mi ha portato? Un po' di sei canali.